Una finestra sua era deserta, a me per via, quale conforto forse un istante prima si è affacciata. Dove sei, mia? Dio Tima. Dio Tima. Morì. E al risveglio posavo sul cuore della mia celeste, come sacra innocente tra le lacrime, confessò d'amar troppo. Quale fu il suo commiato da chi aveva sempre in cuor suo cullato? Come disse: io sono divenuta infedele al maggio, all'estate, all'autunno, come un tempo non ho cura del giorno e della notte, non sono più del cielo e della terra, sono sola più d'uno, d'uno solo. Riposano a riva o sull'onde si cullano o riguardano nuvole d'argento dentro l'acqua specchiarsi e ancor più al fondo veleggiare l'etere azzurro. Al pari sulla terra migrammo, ma foriero di pianto, il nord minacciava nemico a chi ama. E se cadde dai rami il verde e con il vento volò via la pioggia, noi pure sereni sorridemmo, che nel dire fidato sentimmo il Dio nostro in un solo canto d'anime, in una infanzia tutta pace sola, felice. Ma la casa è deserta e mi presero gli occhi. E ho perduto con lei me stesso. dove sei. Smart.